Si tratta di un'assemblea che come Associazione Bianca Guidetti Serra abbiamo promosso insieme a numerosi gruppi e comitati e l'abbiamo promossa per approfondire e confrontarci su come la regione Emilia-Romagna e soprattutto i territori a noi limitrofi si inseriscono nelle strategie nazionali di sviluppo dell'economia fossile, subendo scelte disastrose sia dal punto di vista climatico che ambientale che sociale. E noi in particolare volevamo concentrarci sul progetto dell'Hub del Gas, un progetto che è rilanciato negli ultimi tempi con forza dal governo Meloni, ma che sostanzialmente è sostenuto da anni dalla quasi totalità delle forze politiche dell'arco istituzionale in maniera del tutto bipartisan. Ed è un progetto che ha come obiettivo la trasformazione della penisola in una sorta di piattaforma per il passaggio del metano verso il nord Europa e che quindi non serve per le nostre necessità energetiche, per il famoso interesse nazionale, quanto piuttosto ai profitti della Snam e dell'Eni. L'Emilia Romagna ne è coinvolta in vari modi, ne è coinvolta per l'installazione del rigassificatore a Ravenna, per la ripresa dell'estrazione di gas in Adriatico e per la ripartenza dei lavori del gasdotto Rete Adriatica Snam, che ha come sua destinazione finale Minervio. E io vi ricordo che a Minervio, cioè a 20 chilometri da qui, c'è il più grande stoccaggio di metano del paese, gestito dalla Stogit. Si tratta di 5,5 miliardi di metri cubi di gas che sono stoccati nel sottosuolo in quelli che erano i vecchi pozzi di estrazione del metano di una volta, poi esauriti negli anni 70 e successivamente trasformati in deposito di gas. Noi temiamo e abbiamo anche dei segnali in tal senso che in questo contesto generale venga ripreso un vecchio e pericoloso progetto che prevede l'aumento della pressione del gas negli stoccaggi, un aumento finalizzato ad aumentarne la capacità. È un progetto che era stato sospeso nel 2018 dopo una mobilitazione popolare e per i timori rispetto alla possibile sismicità indotta e temiamo possa ripartire perché è assolutamente funzionale alla costruzione dell'hub del gas. Inoltre la costruzione dell'hub del gas poi si affianca anche allo sviluppo di progetti per una tipologia di mobilità che è un altro aspetto dell'economia fossile. Sono progetti come il passante di Bologna, l'allargamento dell'autodromo di Modena, i poli logistici che si stanno moltiplicando in tutta la regione e quindi niente di tutto questo noi vorremmo discuterne l'8 febbraio con le associazioni, i comitati e vogliamo anche cominciare ad informare su scadenze importanti come la manifestazione nazionale dell'11 marzo a Piombino contro i rigassificatori e contro la deriva fossile. Quindi, insomma, al di là delle dichiarazioni formali sulla transizione energetica, in realtà anche nel nostro territorio l'economia del fossile viaggia, come dire, a ritmi serrati. Sì, si va in direzione ostinata e contraria a qualsiasi tipo di transizione ecologica. Si spinge l'acceleratore verso il fossile in maniera pericolosa e criminale di fronte al disastro climatico che avanza e poi con la costruzione di una serie di infrastrutture che ci terranno legate al fossile per i prossimi decenni, perché chi fa gli investimenti in queste infrastrutture è chiaro che vuole ritornare, vuole riappianare il suo investimento e questo succederà negli anni, quindi ce le terremo per decenni. Faccio anche presente che sono infrastrutture del gas, il metano che è stato definito come combustibile di transizione dall'Unione Europea in realtà non è di transizione per niente, perché a livello incombusto è molto più climalterante di quanto non lo sia l'anidride carbonica, di 80 volte più impattante sul clima nell'arco di 20 anni. Sono esattamente i 20 anni che ci separano dalla catastrofe. Oltretutto, questo tipo di combustibile non può essere ritenuto in nessun modo ecologico, ma anzi va a peggiorare quello che sta succedendo.